io sono sicuro così, Claudio. Anche io sono sicuro, ma non sono di Lanetta. Secondo me è lo che ve lo giuro con muro dentro. Vabbè, se ve lo giuro che te lo fermo a Russo. Importante sia a me due grazie, che ci sia almeno per susseccare a me a te. E via si passa. Cava gara, chi è che voleva entrare? Avanti. E state fatto comprendere che c'è a costello, là. Bene, sta andando questa radio, Claudio, guardami il segnale come c'è buono. Roma. Guarda, a vedere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 va. Figura di due, la Mantova, il tuo segnale, 9 più 20, radio 5 con la Mantova, adesso c'è la Mantova agganciata io, quindi il mio com'è, tornato alla normalità. 6, 9, 25 su questa radio. Quindi allora è tornato alla normalità. Sto usando 20 watt riportante, 40 modulati, quasi 50 modulati, però 20 watt riportante. Vabbè, io mi sto usando 3 watt, invece te dico subito, e una ventina, 22 modulati, no? Quindi ho detto 9 più 20, vediamo così cosa cambia, se cambia qualche cosa. Guarda così, Clark, se ha cambiato qualcosa. Si è abbassato. Si è abbassato addirittura, guarda, allora, aspetta, guarda così. Prova. Guarda questo passaggio. Fai l'altro. Guarda a vedere così. Così si è abbassato. Beh, così sono con il watt a zero. E così con il watt al massimo, guarda. Così sei 9 più 20 e prima e dopo 9 più 10. Beh, quindi io c'è la differenza. Va bene che bene. Gianni, doppio rombo, il cambio di ora. Vabbè, va. Aspetta che ti chiamo qua. Ok, se vuoi la segnatina telefonica. Ho preso al telefono e ti hanno anticipato, aspetta un secondo. Poi Massimiliano. Beh, a quello telefono lì. Cosa Massimiliano? Ehi, direttivo a te non bestia, io avevo certi punti di attenuazione anche dei 20 dB, e quindi mi avrei conciato la manto, guarda, c'avevo un cavo su, scappolo che mi serviva per l'altra antenna, momentaneamente ancora non l'ho montata. Tutta pulita, rivulcanizzata, tutta messa a posto, perché l'ha sganciata già da un bel po', e va meglio, c'è più ricezione, i segnali sono più alti e ricevo un po' meglio tutti, quello che ho detto a Elio, stai attento che se monti la direttiva e devi trovare il corrispondente a polarizzazione orizzontale, altrimenti ti attenua i segnali, come faccio a me. Così, no, io la prossima spesa che faccio è, te l'ho detto, qual è? Quella radio, però forse prima la direttiva, che mi rendo conto che ci bisogna avere una cosa un pochino più seria, insomma, se vuoi arrivare a un certo livello devi avere per forza un'antenna a un certo livello, ecco, devi spendere e investire, come dicono gli americani, fanno un dollaro per la radio ma 10 per l'antenna. No, rinasci te, io non ne avevo mai montato, da quando le direttive ricevi meglio, ti sentono meglio, senza urlare, senza niente, ci vuole. Aspetta che mi sto togliendo la scarpa, un secondo. E io. Stai guardando. Buonasera Rosolitto e a tutti gli amici. E due Rosolitti siamo e boom, già. Ma in due siete Rosolitti. Scappagatta. Eia, buonasera a tutti, dai. È doppio run che vi supercordializza, se no poi perdete il vizio di sentirmi con questa frase. E già va bene. No, io mi stavo preparando con la roba del Massimiliano, con il microfono, quella cosa lì. Sì, Roma. Così domani mattina lascio quella roba, mi prendo quella radio e la controllo. Capito? Va bene. Nel frattempo ne ho approfittato per spostare un po', per fare un po' di pulizia, qualche cavetto che non serviva, l'ho tolto. KK, noi vedi, noi siamo radioamatori, fai da te. Scusa, stavo ascoltando oggi sui 40 metri, sì, e c'era questo radioamatore che ha detto io mi faccio tutto io, accordatore d'antenna, alimentatori, antenne, tutto io faccio. Radioamatori devono fare autocostruzione, capito? Quindi è così, bisogna costruire. Io l'unica cosa che mi avevo fatto è un commutatore d'antenna, boh, non mangio più fatto nulla. Ti sei sprecato. Poi l'altro gli ha risposto, no, io non sono in grado a questo punto di fare queste cose qua, però qualche antenna mi sono divertito a costruirla e mi ha dato anche delle grosse soddisfazioni. Io se mi devo far costruire una verticale lo dico a Luca, troppo bravo. Luca sì, perché avevo un apparecchio prima che aveva comprato su internet, adesso l'ha venduto e si costruiva l'antenna con questo apparecchio qua, adesso non mi ricordo cosa sia, però lui mi ha detto che era per costruire le antenne. Aspetta Gianni, guarda, ma sei su internet? No, se lo aspetto lì. No, niente. Se vuoi vedere un qualcosa che mi ha pubblicato un ragazzo, per me, solo per me. Va bene, ma non c'entra niente, lasciamo perdere, se non sei connesso lascia perdere. E cosa ci vuole a connettersi? Io ce l'ho in stazione il computer. Tiro fuori il ripiano perché scorrevo e accendo. Allora accendo, vai su Facebook. Cosa c'è? No, Gianni, sto dicendo di andare su Facebook a vedere un filmato che ha fatto un amico. Io ho già capito di che cosa si tratta, sono molto perspicaci. È il filmato che ti hanno fatto quella serata che hai fatto, vero? Cos'è? È il filmato che ti hanno fatto quella serata che hai fatto con tuo amico a Olbia. No, guarda, l'avrò messa, mi è arrivata poco fa la notifica, che ho visto anche il filmato, ma non è di musica, Allora non ho recato, va bene. Ti do anche l'indirizzo giusto, aspetta, fammi entrare, chiamare su internet. Cosa? Dite che mi sono allontanato. Aspetta perché il mio è lento. Ah, di quell'antenna te. Eia. Guarda. Poi ci dai un responsor tecnico. Oh, io l'ho già visto. Voglio che lo veda Gianni, così si fa un'idea anche lui di questa roba, capito? A voce quanto siamo veloci con la bocca. Oh raga, io vado a mangiare però e c'ho fame, cazzo, sono 9:10 ancora non ho mangiato. Se ci si sente dopo, ok? Vabbè, io rimango ancora un po' qui, poi già lo sai che non posso più modulare. Vabbè dai, buona cena, a più tardi. Ehi, avanti, c'è la compagnia di Gianni, ci sentiamo dopo, se coincide, se no stai. Fai buon rientro, buon tutto e ci sentiamo quando rientri, ok? Già ci sentiamo al telefono, ciao. Ciao, qua, buona carica. Cosa ti stavo dicendo? Lui entrerà adesso, io sicuramente. Sì, dai, se entra, non già entra, non preoccuparti, e già entra. Sì, se voglio più, magari. Mi ricordo il nominativo ma non mi ricordo la persona, magari lo conosco anche, viste? Può darsi che lo conosci, può darsi. Aspetta che... Ah, sono connesso, aspetta, vado su Facebook e poi ti dico dove devi andare. Che se compito che cosa te, ragazzi, è lento come il coso, mamma. Si è rallentato di colpo, prima era una schiccia. Non saprei. Ho fatto pulizia del disco, c'ho CCP, ho fatto la pulizia, niente da fare, cioè, lo fa nel momento e poi di nuovo diventa lento. E quante antenna stai opzionando di comprare, Ste? Ah, ecco qui. Io ho già visto la cosa qui, non ti faccio il link, boh. Allora posso vedere, sì, c'è la prima parte. Già, se... Boh, che cavolo è che devo fare qui, aspetta. Io ho il tuo contatto, mister. Il mio contatto, lì devi guardare. Non ci sei ancora? Sono arrivato a cercare Facebook, questa presto, piano piano, calma. va bene, piano piano. C'è un rallentatore, invece di tutto c'è un rallentatore che sto compiendo. Perché appena finito, aspetta, a vedere se qualcosa è cambiato. No, forse no. No, non ci sei ancora. Ecco. Sì, ma non sei, come si chiama, in chat, come si chiama, lì, io non ti vedo. Come no? Sì, tu come sei messo? Eccolo qua. Non l'hai trovato già? No, sì, aspetta. I messaggi li ricevi almeno? Cappa, sì, ho letto tutto quanto quello che hai scritto, sì. Ok, aspetta. Ma insomma. Stefano, ci siamo. L'hai trovato già? Trovato l'hai, Gianni. Ci deve essere sceso. Per fare che cosa? Per guardarmi, c'è uno strumento in mano, rilevando delle perdite dove chiaramente il mio lavoro, e quindi non ho capito che cosa. Bisogna difendere, no? Quando poi ho tolto il tesserino noi stavamo difendendo, ma secondo voi c'è, cioè, uno si ferma così a fare che cosa qua? Insomma, poi rifarraffa, si è chiuso il discorso, comunque ho partito l'azienda e poi l'azienda abbia fatto una bella lettera al comandante della forestale di Cosoli, come si chiama? Taglietto, chiedeva spiegazioni in merito a questi due signori che fermano la gente così come che siano a casa dei delinquenti. Ma c'era l'aeroburo in divisa, Flavio dalla casacchina blu con scritto Abbanova, la macchina, vabbè, bianca, si è trascritta, ma se c'era, come ti permetti? Chi sei tu? Flavio, quando ritrovo, quando hai qualcosa, mi trovi le mani, mi trovo le balle, mi chiama la guardia costiera, e li fanno qua, la divisa qui. Ah. Questa è una cazzata, perché poi alla fine, vabbè, c'è chi dice, vabbè, scusi, non ci siamo accorti. Ah, gli ho detto, se non vi siete accorti vuol dire non avete visto, io ho una divisa addosso. Come dice la sua, io ho la mia, quindi non sono qua per giocare. E questa azienda la conoscete? Sì, allora non sono qua in spiaggia per prendere ricci. Con uno strumento sto rilevando delle cose. E si è chiusa lì. Un'altra volta all'Isola Rossa, a Porto, noi abbiamo proprio un sollevamento. Praticamente sulle rocce c'è un come te lo posso spiegare? Comunque è un sollevamento stradale che rimane nella strada, però per poter rilevare il contaore, vedere, insomma, devi scendere in questi scalini, c'è una porticina che praticamente ti porta sotto il livello stradale. Sì, veramente era di domenica, io di domenica non mi cambio mai, non ho divisa, non ho niente, c'è una cassa video, perché già dove abbiamo il nostro posto auto, soprattutto per l'estate, dove c'è le strisce gialle e c'è scritto proprio privato, quindi mi sono messo lì, reminiedi, quello vruscio, tu mai visto nei vigili urbani, uguali, vruscio, abbozzi, questa macchina è mezzo strada, questa macchina è mezzo strada, cazzo, ho sentito le scale e stava mettendo la palla multa, ha detto scusi, ma cosa sto facendo? E questa macchina sua, sì, è la mia, perché? Questo è privato e io sono il proprietario di questo posto privato. Questo c'è allucinante, non ci ho compreso, cioè dici c'è un mezzo marchi. No, sono esaltati, grazie, diverso al mare. Allora a me una volta mi ho trovato al mare, siamo alle 11 del mattino e abbiamo detto, mi fa vedere il pescato, avevo 4 kg e mezzo di pollo, abbiamo detto prendo mezzo pollo e vado via. Qua sono mezzo scemi, per me sono mezzo scemi. La multa la prende, ha fatto ma mi decide la ricetta, poi se l'ha raccolto cosa sta facendo. Sì, questo è un posto privato, io sono il proprietario di questo posto privato, questa macchina è dell'azienda, mi fa vedere i documenti, no, e non era giovato, mi dà i documenti suoi, no, non vedo proprio niente, scriva, e poi ci vediamo su a Trinità, l'ho detto, la faccio parlare col comandante dei carabinieri. Ma lì è proprio un esaltato, proprio un esaltato, io qualche volta me ne sono andato, venga qua, mai ci meni dal guru, l'ha giudito, è ammazza lì. Sì, si sono trovati fortunati, ho trovato la persona che ha ragione, se non mi cagare, qui muore, c'è la faccia. Per carità, cazzo, per carità, poi l'indomani l'ho detto, vabbè, al mio referente, al mio ingegnere, e trovate che domenica così e così all'Isola Rossa. Sono già al corrente, cazzo, già viene avvisato la direzione, hai compreso? Ma che non ti impicchi, cazzo, riprendi a tu. Vabbè, la malattia del coso, del portinaio, cazzo, del portiere, che gli metti un cappello in testa e si sente un generale. Ma lo sai, mio cognato ce li hanno fatto sotto la ginara tu questi efficienti, perché adesso c'hanno anche la motovedetta. Mio cognato è conosciutissimo, abita a Tintino. È andato in pensione l'anno scorso, mi pare, la vice comandante operatore dei vigili urbani. L'altro anno, no, perché non aveva i razzi, l'hanno fermato, conosciutomi, salutato qui e là, capito? Perché si dovevano far vedere, ma mio cognato già si era legato al dito, uno o due ne ha ingessato di forestali di Pietro di Sotto a Porto d'Ora. Che bravissimo cognato, Gianni lo sa chi è, non rompe le palle, non ha mai rotto le palle a nessuno. Ma qui si arriva a te, gli hanno fatto la multa perché non aveva i razzi a bordo. A un sottufficiale dei vigili urbani, cazzo, che lo conoscono tutti, tu le fai la multa perché non aveva i razzi a bordo. Figlio di gioia. Guarda che sono veramente una cosa impressionante. Fanno veramente schifo. Stanno dando aria a tutto andare, da noi vengono. E l'autorizzazione allo scarico, io manco li cago. A me quando ci sono i colleghi, i conduttori, che entrano loro, li vedono in rivendi, con lampeggianti acceso. Arrivano degli impianti con lampeggianti acceso, capito? Io magari sto comprando il registro, sto facendo altro. Due, tre, cammi, gli amici tuoi, ehi, falli entrare. Chi è responsabile qua? Lui, non so niente io. Guardi, è uscito un attimino, venga dopo, io mi la macchina e mi avvio. Ah no, guarda, wow. Io ho sentito che c'erano problemi anche nel demanio, che sì, nella spiaggia. E poi mi entrava, no? Perché magari perché si mettono a fare fotocopie di blocco questi qua. Tu vedi che chiami la polizia subito. Immediatamente. Loro con la polizia che la mia non vanno tanto la cosa, lo sai. Perché capitata di parlare con qualche autorità e dirmi ma è ora che io ho pulito la macchina, la volete fare, ma non ce la deve essere nemmeno proprio niente. E tu, quando capiti che ci sono cose che non capite, chiamate con carabinieri o polizia o guardia di finanza è ancora meglio. Se che male sono i peggiori. Sono il peggio della capitaneria. Riprendo subito un attimo. E quelli sto dicendo già, quelli che c'hanno la motovedetta. Chi si dice che non ti barroneggia di nulla? Gente che esce male, malamente. E mio cognato tu lo conosci alte pensioni, Domenico, il vigile urbano. Cazzo, però non ho mai fatto un bronchetto, le durava un anno. Ai, ti fischiava, facevi un attimo, ok, nulla, poi. Cazzo, l'hanno fermato sotto la Genara perché lui c'ha la barca, abita a Sentino Canton, lì al villaggio, come cazzo si chiama, Bagaglino, abita lì, ma da prima di costruire il villaggio. E d'estate, l'anno scorso, è uscito dalla barca, bisogna fare un giro, giusto per d'estate, forse era di questo periodo, una giornata di marzo-aprile. L'hanno fermato sotto la Genara, lui già le sale di distanza, quindi era lontano, eccetera. L'hanno salutato. Come stai? Come non stai? Per mandarci, ma la documentazione a posto è? Fatto sì, tutto a posto, perché? E radio ce li hai? No, radio non ne ho perché li metto solo d'estate quando uso la barca tutti i giorni. Cazzo, la contravvenzione l'hanno fatta. Sarà peggio. Una volta era a cena a casa del cugino di mia moglie che era maresciallo di finanza. E ha invitato il suo collega che si era separato da poco, era un po' in paranoia e cose, l'ha invitato al suo compleanno e ce l'abbiamo anche noi, la mia famiglia, e poi c'era un'amica loro, eccetera, eccetera, e lui stava facendo il galletto con questa amica. A un certo punto io faccio la battuta, invece che mi accende uno spinello, cazzo, bella usciatura, se ne bisogna, se fai questo io ti arresto. E lei gli ha detto il cugino mio amore, calma, vedi che sta scherzando, quando mai gli si fa rispiegare, ah non lo so io, questo e quell'altro, ma io ho detto apposta per provocarlo brutto a chi, mi stava già sulle balle della cosa stava raccontando, ho detto che una volta sono andati quando era finanziere che praticamente faceva il soccorso alpino, sono andato in questa casa e c'era un freddo, sono andato in questa casa e trovo che c'è qualche cosa da bere di forte. Questo poi dice, sì, io ho fatto la vita che ho fatto io, grazie alla buccia di maletto si è pulsato. Cazzo, allucinante, mamma mia, guarda, queste cose io non le sopporto perché non ce n'è per nessuno, più da schifo, no, non voglio raccontarne qua perché Gavino li conosce, quindi non mi va, guarda, ma nella mia famiglia c'è un ex che praticamente è il cognato di Urbano, che è andato in pensione, è un maresciallo della Guardia di Finanza, molto conosciuto a Porto Torres, Otto Soranna, Vito Soranna, carità di Gesù Cristo. A me mi ha sequestrato la moto all'ingresso del varco, Gavì, quando c'era la sbarra, mi ha sequestrato la moto, perché non ci avrevo il bollo, io di grande puttana. Non ho sentito parlare, e invece c'era un altro finanziere che a mio nonno una volta al padre signore della finanza, senza fare nulla, serva, che adesso è in pensione, ha preso e gli ha controllato la borsa e gli ha trovato questa forma di formaggio. Me lo sai, l'ha dovuto prendere, gli ha dovuto dare mezza forma di formaggio, perché altrimenti non gli voleva sequestrare il tutto. L'ha preso, se l'ha spaccata nel giro, gli ha fatto, perché è dovuto avere il tono, gli ha detto, dividiamola, la mangiamo sia io che lui, ha detto, capito? No, no. Fa uscire, vabbè, allora si è affidato, se la fosse lui, io ce l'ha con casa, era un mezzo uomo di caccia. E io lo conosco chi è quello, lo conosco tutti. Più avanti, uno ne hai da raccontare, non ti hanno mai fatto niente a te. La radio, questa radio, che cambia più di te. No, lì c'è un MBS. Brutta. Come è brutta, brutta. No, questa non mi piace, è troppo chiusa. Qua aveva più tonalità acute. Ho capito. Ma come volume c'è, sì? Sì, come volume sì. Io spero cambio, va. Grode. Lì ci va, sta provando io. No, il microfono stavo provando un... questo è un Turner P3, ma cambio. Turner P3 in FM, insomma è così, è più da M, Turner P3, in FM è molto basso, capito? Questi figli di puttana, ma io ce li ho sulle balle, perché quando si è calmata. A me l'azienda mi ha detto di fare da bravo, perché mi conosco. La prossima volta si presentano così, con chita prosopopea, io avrò fatto bassare prosopopea. La situazione deve cambiare. Ogni volta si presenta un impianto, c'è il cancello chiuso, apro, entro con la macchina, cazzo, ma a casa due oggi. Ma loro già lo possono fare. Posso entrare anche in proprietà privata. No, quella è casa mia, c'è il cancello chiuso, tu ti avvicini al cancello e chiedi permesso, ho già gatto di nivare, ne vuoi la cadena e entri con la macchina, ma stai scherzando, no, non si entra a casa degli altri così, per entrare a casa degli altri deve avere un mandato, non lo si ruba il drono, e gli ho già detto una volta, l'ho detto il cancello chi l'ha aperto, l'abbiamo aperto noi, e non si apre il cancello a casa degli altri, e ci scusi, no ci scusi un cazzo, solo lì ci scusi. Tu rimani fuori, a me mi chiami, io vengo, se tu mi fai vedere la documentazione dove sei idoneo a controllare l'impianto, vuoi la documentazione dell'autorizzazione allo scarico, vuoi la documentazione dei fanghi, vuoi la documentazione che ti compete vedere, perché sono documenti che non le compete, qui non gliene do, ok? Allora va bene, però tu a casa mia non entri se il portone è chiuso, che non sei nessuno. Voi sapete da voi io ho anni, ma comunque c'è ragione là, no, i taglietti di migliaia sarà solo una bennata. Mi sa che ti posso trovare in campagna facendo un muschio, a fare muschio per la dove è Natale, ti faccio un Natale a un reco. Sì, lo so. Si può toccare il muschio, ma quello me l'hanno detto anche i Baraccelli, ma a me non me ne ha fatto nulla il muschio, non è una cosa che mi interessa, non è una cosa che mi interessa. Noi ad esempio quando tutti gli anni, adesso di questo periodo, ci sono i giardinieri, quelli addetti al taglio dell'erba eccetera, che puliscono gli alberi, prima di iniziare la pulizia degli alberi, che poi è una pulizia, non è una potatura vera e propria, è una pulizia dei rami, quelli bassi, per far sì che gli impianti siano un po' più belli, dai, idoni, se no sembrano abbandonati. Noi chiediamo sempre l'autorizzazione alla forestale, non è dubbio, perché lo sappiamo che poi tutti i rami vanno bruciati, eccetera, quindi va un'autorizzazione, e quindi te la chiediamo, ma non è detto che tu devi entrare a casa degli altri e comandare a casa degli altri. Guarda quando tagliano la legna in pineta, a quelli che si rapida la legna, l'inzinga che si rapida, e si tuoni di fare ogni muro di storia, che dice, ma se la lascia loro che hanno bisogno è meglio, no, io c'è la roba, un po' la mano di zingari, capito? Io lo so, anche a Platamona fanno così, sono le cartazze lì alla, dove c'è Maiani Sosso, sono le cartazze dei pini, tutti vede assentati, puliti, e ogni tanto si vede qualche furgone zingaro che carica la legna e si inanda, vabbè, sarà autorizzato, però dico, c'è gente che ne ha necessità per scaldarsi e non c'è soldi a comprarsi la legna, ti fa la domanda, tu gliela devi dare per legge, perché so che è una cosa l'ente foreste ogni anno fa, quindi e vanno in rugabo per i fatti giù, lascia perdere, io non ho paura, ripeto, già la seconda volta che ci attacchiamo, la terza volta io giro le spalle e me ne vado, poi per il numero della targa mi mettono la faccia nel culo. E lì da pure infatti. So io, vabbè già, cosa dici già? Io diciamo non ho avuto a che fare, io una volta solo Galghero sono andato a pescare, siamo andati con la famiglia, era un giorno di primavera, ma era una bella giornata proprio, ho detto, siamo andati con degli amici, delle amiche e cose, ho detto ma mi pare che mi portano a casa, e ho detto amico mio, la porta anche a te, perché lui non ne aveva più. Dice portamo là, qui ci facciamo una pescata. E ho portato due canne, il borsone, il secchio che mi porto sempre, che ce l'ho sempre quando andavo attaccato, quando andavo a peccare un muro e pigliavo leva così. E niente, stavo pescando, a un certo punto vedo la forestale arrivando, ho sospettato qualcosa, avevo già preso un'orata e un polpo, prendo di nuovo tutto dentro la buccia e lo pongo nella sacca, arrivo alla forestale, buongiorno, buongiorno, e dove siete voi? Io dico, Sassari, perché? Ma sapete che qua non si può pescare? Come non si può pescare? Quelli di Sassari non possono pescare, io pensavo stavo a prendere in giro, e ho detto perché? Perché questo è un parco, possono pescare solo gli algherini. Ho detto, beh, se è parco non può pescare nessuno. No, no, gli algherini si possono pescare con un permesso del comune. Ho detto, ma il comune cosa avventa? È così, purtroppo è così. Ho detto, guarda che siamo sardi, noi non siamo continentali. Anche noi apparteniamo alle provincia di Sassari, Alghero, non è che... non so, ma purtroppo l'ordinanza è questa, se va pescato qualcosa avete no. Io gli ho detto no, con un pesce si muove a Trento. Perché se avete pescato qualcosa vi devo sequestrare tutto, sia il pescato che l'attrezzatura. Però noi non avete pescato, dice Cuca, per volervi bene vi faccio piegare tutto, adesso piegate tutto subito, perché sennò mi se mi tocca sequestrarvela. Beh, abbiamo piegato tutto e la serata c'è passata, perché noi le donne, sai come sono, chiacchierano tra di loro, i bambini giocano, noi eravamo con la canna, ogni tanto ci avvicinavamo con la battuta, però almeno ci stavamo divertendo, ci hanno rovinato tutto. Capitania, te l'ho detto, mi ha detto che fino a dicembre 2014 non scale, c'è la prova. È positivo, vero, vero. Ma io ho capitato di fermare la polizia, la capitania, i carabinieri, ma non c'erano niente, proprio ti guardano se c'è l'assicurazione, perché quello lì avrebbe l'assicurazione a mare e in macchina quello non dovrebbe. Allucinate, sono pignoli proprio fiscali al 100%. Ma polizia giudiziaria, hai capito? No, no, no, no, sono polizia, sono sono ministro dell'interno, però ministro grande giustizia, come sono come la prima. Ho capito. Neanche loro hanno il GPS. Ho capito. C'hanno un titolo. Li hanno veramente aumentati, minchia, sto dicendo, a mare sono una cosa da paura. E a terra, quel cazzo di camionette, te li trovi davanti, devi stare molto attento, soprattutto nella parte depuratori, perché un depuratore, sai, sempre, è sempre un pericolo, soprattutto quando piove molto, dipende dalle portate, da che quantità può ricevere, quindi capita qualche volta che tra cima magari la vasca ossidazione, la vasca sedimentazione, ti ingessa, noi nei nostri impianti, perché io oramai ho già capito la cosa che loro stanno aspettando per potersi ingessare. Tutte le volte che piove io avviso tutti di aprire il più possibile le saracinesche per lo scarico, perché altrimenti si riempiono di più le vasche e quindi tracimano, saltano nella strada e però ti piombano subito immediatamente, capito? Quindi siamo già preparati in questo, ma perché ho già visto che cosa vogliono fare loro. Allora, per non farci inculare, io sono Gubbio Fuibu, intercetto subito. Bisogna stare molto molto attenti, molto ma molto attenti. Sono diventati veramente molto molto molelli, non pensavo che avessero tutto questo potere, veramente dei delinquenti. Vabbè, però adesso è rientrato e glielo riprendo. Kappa. E vabbè, anche loro fanno magari proprio, non mi ricordavo che facessero servizio su mare, che al mare, adesso ci siamo a poco, non l'ho mai visto. Fa poco, già mi sono lì, non capì. Noi saranno già 5-6 anni che siamo, di più, mi sa che loro hanno preso a fare un servizio a mare nel 2004. Ecco, vedi, infatti non mi ricordavo, quando ci voglio a mare 15 anni fa, mai visti, da poco quindi. Beh, nel 2004 sono 15 anni fa, cioè nel 2004 sono 15 anni fa. Sono 10 anni. È vero. Cosa stavo dicendo? Allora, se mi ricordo bene, quando io ero giù a Lenichem, stavamo facendo la linea del pontile, quindi il carbonile, dal Leniken a Fiume Santo, loro erano già in supporto sia i carabinieri che la guardia costiera, e avevano una motovedetta solo, Gavis, se mi ricordo bene, correggimi, che è quella, la motovedetta che c'era praticamente ferma a Porto Torres della penitenziaria, che era quella che faceva il tragitto Porto Torres e la Genara. Positivo, che dopo l'hanno messa la terra alla Gran 5 nel cantiere navale di Acciaro. Esatto, e si conferma, esatto. Dico questo particolare perché poi quando abbiamo terminato lì, e io sono passato con l'officina turitana e andavo proprio alla Cinara per il dissalatore, loro facevano servizio in mezzo tra Porto Torres e la Ginara, in supporto alla CP 24742 242, la grande, erano a supporto, lo guida girava, ci barrompì le balle a Raienti, ed era in supporto, rimaneva in mezzo nel caso dovesse succedere qualcosa, mentre la motovedetta dei carabinieri, allora comandante della motovedetta dei carabinieri, era Vaccaro, se te lo ricordi, brigadiere Vaccaro, che poi è passato maresciallo, ed era lui che comandava la motovedetta, la Careggio, lo vedevo spesso, quindi c'era Vaccaro, la motovedetta dei carabinieri, dopo la riga foranea in mezzo, quella della forestale stava più a ridosso, la della capitaneria arrivava sia a Punta Scorno. Positivo, che aveva la moto, quella più, che lo vogliono dare a questa qua bianca che aveva. invece dal ridosso lì di Marinella, e già però non mi ricordo perché ero lì all'Eniche, al pontile vedevo sempre molto movimento. Vedevo molto movimento. Ehi, vabbè, ma cazzo. La Polmare, allora è vero, il comandante era Bertone. Cazzo, l'ufficio comandante era zio Natale Falchi, mio zio, fratello di mamma, che è morto. L'aiutante era Priamo, cazzo, Veragogio, come si chiama? Mario, non mi ricordo il cognome, erano i cinque, e Filippo, cazzo, i cinque dell'Ave Maria, ma chi c'erano i zincubetti di ban? Chi si chiama di prima Maria, chi c'erano i suoi, a Rivie, boh. Figurati, già riconoscevo tutti io quelli, però erano più tranquilli, la Polmare è stata sempre più tranquilla rispetto ai carabinieri, perché Gianni Vaccaro non ci sa d'un bel, te lo dico perché ci conosciamo a tu e tumba già, un tuo amico di famiglia, all'Alghero, con mie sorelle, con i miei fratelli, con i miei zii e tutti, non ci sa d'un bel, Gianni non ci sa d'un bel di gente, per la comandante della motovedetta dei carabinieri. Mentre l'altro, gli altri erano un po' più tranquilli, certo Bertone non era amaro, c'è lo Bertone, vabbè la gioco ne ci devo appuntare, io, voi passate brigadiere, voi maresciallo. Hanno fatto tra l'altro il corso motovedetta, gli vi che sono arrivati alla Maddalena, quando io figurati ero ancora militare alla Maddalena, che ero le scuole lì vi sotto ufficiali, viene già di due. Caro doppio rum, a te non ti dicono niente quando vai al porto a pescare. Gianni, ma Gianni Serradrucci, Elio, Cappa, no, stavo parlando un po' di, stavo per me cadere il tecnico che stava dicendo Antonio, no? Boh, cazzo, allora c'era un filmato di un paio di ore, ho trovato due centesimi. Due centesimi? No, non sono due centesimi. A due centesimi manco la bizzona ne vogo. Infatti, che vabbè. Tu. Eccolo. Hai sentito cosa ha detto Elio? No, ho alzato il cellulare. Diglielo Elio, cosa hai detto? L'ho firmato del Gavetti 250. E questa qua ho trovato praticamente un centesimo e poi un altro centesimo in un paio di ore. Vabbè cazzo, evidentemente è andato dai carricci in montagna e ha trovato ricci di castagne. E a seconda di dove vai è normale che non trovi niente. Però che cos'era, in un bosco? No, no, no, era al mare. Aspetta, ricca, ce l'ho qua, aspetta. Se non è... a Napoli, ho cambiato pagina. La cosa, Caorle. Ah? Dove? Caorle, vicino a Venezia. Ah vabbè, ma lì non so, il problema è che più è di afflusso la spiaggia, più ci sono le probabilità. Poi è probabile che non trovi niente, però sembra strano, sai. Se vai in una zona come può essere ad esempio la Pelosa, come stava dicendo Gianni, o lì alla Rotonda. Noi abbiamo delle spiagge che sono di grande afflusso, soprattutto nel periodo di settembre-ottobre, ma anche adesso, dopo le mareggiate, è impossibile non trovare niente. Cazzo, due centesimi devi essere un tonto, Wilson. Due centesimi, ma vuol dire che ha messo il discriminante a prendere bronzetti, Sabu, no, cercavo l'audio spento, perché stavo ascoltando la radio qua, però stavo guardando, questo scavava, e alla fine hanno trovato due centesimi. No, ma se tu guardi ci sono anche, ho visto qualche altro, guarda di qualche altro, se hai voglia, qualche altro filmato, c'è gente che trova soprattutto vicino alle casematte, quelle della che ci sono ad esempio lungo i bordi della strada, trova anche reperti militari di un certo tipo, e c'è tutto un sottomercato e te le pagano anche bene. Sì, ho visto qualcos'altro in un altro filmato, però ho trovato OGT, ecco, OGT, forse boh, non so se non da oggetto. Ma bisogna provarlo. Guarda, succederà questo, se fra una settimana ti dico che te lo voglio vendere perché non ho trovato niente, te lo voglio vendere, vuol dire che è realmente una cagata. Se invece ti dico che non ho trovato niente e non te lo voglio vendere, vuol dire che me lo voglio ottenere perché qualcosa ho trovato e non ve lo voglio dire. Ecco, comunque stavo leggendo anche, non so se sia libero poterlo utilizzare, c'era qualcuno che stavano dei forum e quanto pare che ci vogliono delle autorizzazioni, praticamente se trovi degli oggetti devi denunciarli. Sì, ma infatti, assolutamente sì, te l'ho detto, nelle zone, come si dice, aspetta che c'ho troppo stazionario, aspetta che abbasso, nelle zone archeologiche non puoi proprio minimamente entrarci. Ma nelle zone, anche nelle altre zone, se dovessi trovare chiaramente un bronzetto, una cosa, una moneta antica, è normale, vai dal carabiniere e gliela consegni, ci mancherebbe. E no, ma parlavano anche di oggetti tipo orologi, cose del genere. Sì, sì, sì, ma infatti se trovi qualche anellino d'oro, qualche cosa, non è che vai al compro oro e ti fai dare i soldi, e vai dai carabinieri e gli dici, mi guardate, ho trovato questo, restituitelo al legittimo proprietario. Sì, sì. Che facciamo per gli anturi, carabinieri? No, bisogna essere persone corrette. Ti dico solamente che notizia di avantieri. In America hanno battuto all'asta un bronzetto nuragico della Sardegna e gli hanno dato 120.000 euro. Un bronzettino gagadumi. E qua chiaramente ti arrestano subito, però se lo dovessi trovare io non è che andrei in America e lo farei battere all'asta, lo consegnerei chiaramente al Museo Sanna o comunque a rappresentanti delle forze dell'ordine, è normale. Ha già preparato il biglietto per andare in America, eh. Dai, fine, non ci credo, cazzo, io, cioè se lo trovi lo porti al Museo Sanna, no. Beh certo, ma cosa stai scherzando? Non me ne voti 120.000 euro. E invece vai al Museo Sanna, ti stringono la mano, ti danno una pacca sulla schiena e ti fanno magari l'abbonamento per l'ingresso gratuito al museo per un anno, per te e compagna. Vuoi mettere? Che soddisfazione. No, a me sicuramente se faccio una cosa del genere, dico complimenti. Caro Claudio, tu da oggi ti diamo il tesserino di Guglioni. Capì? Ma secondo me se quindi consegno una cosa del genere ti mando la nato a casa per vedere se ne hai altri. E dice se ne ha consegnato uno poi sarà consegnato un di lui. Guarda, magari fai un buon gesto, no? Come ha detto Antonio, che è un comportamento chiaramente da signore. Secondo me ti mettono in grosse difficoltà tanto dopo. Ma la smetti, ma ci state anche credendo. Secondo te, ma io trovo una cosa e la consegno, ma non scherziamo per cortesia. Oh, a me è capitato, testimone Chiara che tu conosci, di trovare di fronte al villaggio una sacca di un indiano, di un tonto, che per prendere il tram per rientrare a Sassari si era dimenticato una sacca ed era pieno di collanine d'argento. E alla fine cioè, l'ho ritrovato perché c'aveva scritto il nome, l'indirizzo e gliel'ho riportato, questa più o meno Simone Appigni, però perché era un poveraccio, era uno che si aveva investito tutto per venire qua e iniziare a vendere queste cianfrusaglie ed era un po' argento di Guido di Bologna. Comunque a prescindere, quando è del singolo e stai comunque mettendo in difficoltà una persona glieli restituisci, ci mancherebbe. Io dovessi trovare un anello, un qualcosa, ma anche un bronzetto nuragico. Bronzetto nuragico lo restituirei assolutamente perché è fuori legge, ma un anellino così, diciamo che lo vendo e dopodiché facciamo una cena fra CB. Ehi, a me pongo i busciacchi, altro che cena fra CB, Può anche succedere, capito? Può anche succedere che trovi una cosa e... magari veramente di un poveraccio vai alla porta dei carabinieri e si arrangia niente. A me è capitato di trovare un portafoglio, c'erano 50 euro dentro, potevo prendermi le 50 euro e andare dai carabinieri e consegnare il portafoglio perché c'erano i documenti. Però io l'ho preso, tra l'altro era anche vicino perché era lì nella tua zona, sono andato a vedere, guardi, in questa via ho trovato questo portafoglio. Rivederci, c'è, no, deve mettere, no, mi aveva detto, firmato. La giuragata mi dice, guarda, ma a prescindere, potevo prendere 50 euro, nessuno lo sapeva, consegnavo, ma che cazzo me ne frega, Mary, ho preso e ho consegnato così, ma magari arriva che povaraccio sicuramente. E già, pensavo ti fossi tenuto, i documenti e gli avessi consegnato i soldi. No, quello l'ha fatto un carabiniere una volta, che ha trovato un portafoglio e c'erano soldi dentro. Ci ha buttato i soldi, è andato in casa e mi ha portato i documenti. No, quella del carabiniere era diversa, erano quella del finanziere, del carabiniere e del poliziotto, che a seguito di una rapina sventata avevano trovato questi tre sacchi e a fine carriera erano sempre stati integerrimi e alla fine se li avevano divisi fra di loro, si avevano diviso un sacco chiuso a testa. Dopo 50 anni si sono ritrovati, dice il poliziotto, dice, beh, tu cosa hai trovato nel tuo sacco? Quella sto facendo breve. E dice, io ho trovato 50.000 euro, dice, mi sono sistemato un paio di cose, ho comprato una casa ai miei figli e tutta un'altra serie di cose. Vabbè, 50.000 euro non si può fare più di tanto. Dice il finanziere, dice, io invece ho trovato 100.000 euro, mi sono comprato la campagna, la macchina nuova e tutta un'altra serie di cose. E poi arriva allo carabiniere, dice, tu cosa hai trovato? E io ho trovato solamente cambiali, dice, e cosa ne hai fatto? E piano piano me le sto pagando. Cazzo di coglione. Montareddu. Cazzo di Dio. No, andiamo un attimo a cercare i cambiali. Cazzo. Cosa ne fa? Piano piano me le sto pagando. Guarda imbecille. Beh, di là sei burro. Via. Gabi, ma quindi stai riuscendo a male sempre? E adesso di meno, guarda, perché sono un circo con un amico e adesso come li puoi incalare, esco di nuovo. Oh, insomma non ti fermi mai tu, cazzo, mamma mia che risorse che hai. Del pesce spada. Ho visto, ma ci sono 300.000 qui da corda, 400.000 qui da corda con quelle parti. Non ho visto su di Max il documentario dei calamari come aggrediscono l'uomo. Cazzo, sì, l'avevo visto, non l'ho dato un paio di volte, bello però, eh. Carichi che ci sono lì in zona Fiume e Santo, è possibile comunque trovarne anche di pezzature fuori norma, eh? Cacinelli. Oh raga, dai, sono 11.25, che qua saranno tutti a nanna, me ne vado anch'io. Sentiamo, grazie alle due chiacchiere, ciao Antonio, ciao Elio, ciao a te Gavino, saluti a casa. Ciao a Gianni Doppio Rutte, che adesso fra un po' si sveglia e vi dice qualcosa così di come fa ogni tanto a me, cioè, lo stava sognando, vabbè, salutatemelo se si sveglia. Ciao a tutti, buonanotte, a domani, alle prossime, ciao, bye. Ci sentiamo alle prossime domani. ciao Cla, buonanotte, ci sentiamo domani. Gianni adesso è cuccato, drumito, con la bavetta che gli scende sul cuscino, che ogni tanto tocca il microfono e gli dà la scossa e si sveglia per quello, capito? Ciao Cla, buonanotte, alle prossime. Ciao. Andiamo via, riprende, riprende io, capito. E io dai, comunque ne approfitto anch'io. Signori, vi saluto, vi ringrazio per il QSO e ci sentiamo domani se coincide. Ciao Gianni, ciao Elio, ciao Gavino, e possibile domani mattina, se ci sei Gavi, che ci faccio un salto, dai. Positivo, domani mattina ci sono, fino alle 14, Andrew, se vuoi passare, sono lì. Buonanotte, e se scendi ti aspetto domani. Ok, ciao ciao. Tanto veniamo per ascoltato. Io faccio QRT che non ti hanno alzato il peso ma te lo amico a fertilia. Ciao ragazzi, ci sentiamo domani, dai. Ciao Elio, ciao Antonio, buonanotte. Ciao ciao ciao ciao. Tu ha rotto, dai. Buonanotte a tutti. Ciao ciao. Ciao Gianni, buonanotte. Se vuoi passare a trovare anche tu, sei benvenuto. Ciao Gianni, ciao Gavi, notte. Ciao Gavi, ciao. Non lo so perché io quando lavoro e buco. Se capita, Gavi, non c'è problema. Grazie per il video. Sì, anche quando ci do lavoro.